snowflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte e bentrovate con l'anno nuovo. E proprio con l'anno nuovo vogliamo darvi un augurio di consapevolezza. Abbiamo scovato un libretto piccino, un libretto piccolo ma bello, di Colette Gibert. Allora, Colette Gibert è una scrittrice che, a parte il fatto che è conosciuta col nome di Colette Thomas, che è il nome del marito, non si capisce perché, quindi lei si chiama Gibert. Però ha scritto questo libricino nel 54 ed è assolutamente introvabile, anche se è stato tradotto in Italia nel 94, e lo ha scritto con lo pseudonimo di René. René, che significa rinata, anche in italiano in effetti Renata vuol dire rinata, e si intitola Il testamento della ragazza morta. Però non è un noir, non ha queste caratteristiche, tutt'altro. Di fatto racconta la necessità della morte della ragazza che lei era per poter rinascere come donna consapevole, e quindi è un percorso di consapevolezza. Ci sono due frasi che volevamo leggervi in apertura, appunto come augurio di consapevolezza per il nuovo anno. Cerco, non cerco l'attrice, né la donna di lettere, neanche me stessa. Cerco la donna e la troverò, ma cerco anche la felicità. Quella donna e quella felicità devono essere esattamente opposte per farmi sentire così lacerata. E poi ancora. Il mio sangue si muove, ma io sono calmissima adesso. Ho capito che una ragazza sanguina sempre. Adesso volevamo iniziare con le notizie e con la notizia della violenza in India. E in seguito infatti ad uno stupro di un gruppo su un autobus a Nuova Delhi, di una ragazza di 23 anni che in seguito alla violenza è morta. Ci sono state numerose manifestazioni in tutta l'India. E, al di là, diciamo, delle manifestazioni e di tutto quello che si è detto riguardo a questa violenza, e, noi, insomma, ci hanno colpito perché ci sembravano particolarmente interessanti le riflessioni fatte da un'attivista scrittrice indiana, Arundhati Roy, che è conosciuta perché combatte in prima linea contro le multinazionali e le privazioni delle terre che subiscono i contadini indiani. E appunto volevamo parlarvi un po' di quelle che sono state le sue riflessioni dopo le manifestazioni. Bunny, I thought that pot was long since dead, but now there's new life coursing through my veins, because there's someone to make it beat again. Infatti la lettura di Roy è particolarmente interessante e soprattutto si lega anche con quello che purtroppo diciamo sempre, anche quando per esempio con lo stupro dell'Aquila eccetera, perché insiste sul fatto che appunto lo stupro è in realtà un'arma di dominio e invece si reagisce con tanto scandalo e indignazione quando succedono eventi del genere. Roy inizia con la sua... All'inizio della sua intervista infatti dice: assistiamo ad una reazione eccezionale ad un evento che non lo è, ed è terribile pensare e definire un evento così tragico come non eccezionale. Comunque sia, il problema reale sta nel fatto che questo crimine in particolare ha suscitato tanto scandalo e oltraggio in quanto insiste e riproduce l'idea del criminale povero, un venditore di frutta, un istruttore di ginnastica, un autista di autobus, che aggredisce una ragazza della classe media e della borghesia indiana. Mentre quando lo stupro è usato come strumento di dominio dalle caste alte, dall'esercito o dalla polizia di Stato, non viene neanche punito. E infatti il fatto che la ragazza appartenga alla classe alta e che gli altri stupidi siano passati sempre sotto silenzio viene detto chiaramente sempre in un articolo che riporta sempre l'intervista di Arundhati Roy, in cui dice che ci sono stati tantissimi casi di donne adivasi, cioè appartenenti a una popolazione tribale, o dalit pari oppressi, cioè appartenenti a delle minoranze povere, che sono state oggetto di torture, di stupri di gruppo e successivamente uccise nelle condizioni più disumane a Delhi e in altri luoghi di tutto il paese. Quindi questo tipo di situazione non è eccezionale, l'eccezionalità forse è l'uso che ne è stato fatto con certe modalità. Cioè sì, l'eccezionalità dice sta in questa risposta, no? Cioè esatto. In massa che si mobilitano, sì. Insomma, di persone molto indignate da quello che è accaduto. E mentre infatti lei insiste invece sul dire, tra l'altro, che questi stupri, no? Cioè quando lo stupro è usato come arma di dominio di classe, quindi cioè, viene eseguito, cioè viene esercitato da... le divise, polizia, esercito eccetera, tra l'altro questi stessi corpi dell'esercito che hanno guadagnato un'impunità in queste zone come il Manipur, il Kashmir eccetera, attraverso le leggi speciali come l'Armed Forces Special Power Act, che stanno un po' da dovunque, no? Cioè assistiamo, questa è la nuova stagione militarista che ha portato un po' l'occupazione dentro agli stati dentro agli stati democratici anche, no? C'è un parallelismo molto forte, per esempio, con quello che è successo all'Aquila, no? cioè quello stesso militare che ha stuprato la ragazza il gennaio scorso, era lì proprio in veste di truppa di sicurezza, che noi chiameremmo più volentieri di occupazione, visto che dopo un territorio quella popolazione si è anche vista l'ingresso in massa dei militari. A questo proposito, sempre Arundhati elenca, ad esempio, per quanto riguarda le forze dell'ordine, l'incidente del 1991, dove unità dell'esercito indiano hanno stuprato circa 100 donne. Poi lo stupro di gruppo del 2004 di Manorama Devi da parte del reparto dei fucilieri dell'Assam a Manipur. Lo stupro di gruppo del 2009, la successiva uccisione di due donne del Kashmir da parte del personale delle forze di polizia della riserva centrale. E lei si chiede quanti dei dimostranti, dei giovani dimostranti alla porta dell'India, dove si sono avute tutte queste manifestazioni, sono consapevoli o meno di questo, e comunque quanti hanno sentito anche il nome di Sony Sori, per esempio, no? Perché Sony Sori era un insegnante a Divasi, quindi, come avevamo detto prima, appartenente a una popolazione tribale, una minoranza, e attivista per i diritti umani nello stato di Chhattisgarh, perdonatemi la pronuncia, che era stata falsamente accusata di fare il corriere per i maoisti, arrestata, è stata spogliata, torturata e soprattutto torturata con modalità di torture sessuali molto molto pesanti, che vi risparmio assolutamente. Quindi è chiaro che le manifestazioni, al di là che chiaramente non tutte le persone che sono andate alle manifestazioni sono andate in cattiva fede, però sono state montate nella richiesta di una sicurezza, di un concetto di sicurezza che poi reclama leggi, che a loro volta reclamano una recrudescenza del diritto penale, e questa sicurezza è chiaramente delle classi abbienti nei confronti di minoranze, dei marginali, dei poveri e dei ed è proprio questo che lei mette in luce, ed è anche questo che poi in maniera diciamo più meno eclatante, ma succede anche qui da noi in effetti. Blue-eyed girl became blue-eyed whore. Dalla vicenda appunto dell'India, dallo stupro dell'India, passiamo poi a quelle che sono le cose che succedono qui da noi. Domani, giovedì 10 gennaio, ci sarà all'Aquila infatti la terza udienza del processo per lo stupro di una ragazza fuori da una discoteca a Pizzoli, che è avvenuto a febbraio dello scorso anno, e accusato dello stupro è Francesco Tuccia, militare del contingente di controllo della cosiddetta sicurezza post terremoto. È molto probabile che Francesco Tuccia sarà chiamato a deporre, e quindi noi sappiamo che cosa significhi questo per la ragazza. Sappiamo fin troppo bene che il percorso nelle aule dei tribunali purtroppo comporta un'ulteriore violenza per le donne che la violenza l'hanno già subita. Proprio rifacendoci sia alle vicende dell'India che a quelle di casa nostra, è chiaro che ne viene subito fuori che la violenza maschile sulle donne non ha confini, che non è legata alla religione, all'etnia, alla collocazione sociale, alla nazionalità, che attraversa i tempi storici, perché poi assume, è sempre frutto della sottomissione della società patriarcale, e assume di volta in volta però l'abito più funzionale a seconda del sistema in cui agisce, no? Per cui si rende necessario smascherare le ragioni sociali, politiche, economiche che la determinano e ne sono causa, proprio perché in ogni configurazione sociale ne prende di determinate, di particolari, ma tutte quante hanno la stessa radice. vi ricordiamo quindi che l'appuntamento è domani, giovedì 10 gennaio, alle 9 al Tribunale dell'Aquila in via dell'Industria. Vi volevamo poi invece ricordare un altro appuntamento, un'iniziativa che ci sarà sabato al Nido di Vespe al Quadraro. E, diciamo che l'iniziativa parte da una strage che è avvenuta il 24 novembre scorso in una fabbrica tessile a Dhaka, in cui sono morti più di 100 lavoratrici e lavoratori in seguito ad un incendio che è divampato appunto all'interno della fabbrica per la mancanza assoluta di misure di sicurezza nello stabile. E, i morti, diciamo, si vanno a sommare a migliaia di lavoratori e lavoratrici che ad oggi hanno perso la vita in strutture fatiscenti in Bangladesh, in Pakistan e in India. E, tutto ciò accade perché le grandi firme di abbigliamento, per trarre il maggior profitto, risparmiano naturalmente azzerando i costi del lavoro con salari che sono salari da fame. E pensate, infatti, diciamo che un lavoratore più o meno in Bangladesh guadagna circa 30 euro al mese, e poi naturalmente si risparmia sulla sicurezza. Questo meccanismo di sfruttamento è uguale in tutto il mondo, quindi in Bangladesh come anche qui in Italia. E per questo è stata, diciamo, organizzata questa iniziativa, ricordando l'importanza dell'unità delle lotte di tutti i lavoratori e lavoratrici. E inoltre, diciamo che i soldi che verranno raccolti durante l'iniziativa verranno poi mandati alle famiglie delle vittime dell'incendio a Dhaka. E quindi sabato 12 gennaio dalle ore 17 nello spazio sociale Nido di Vespe in via degli Arvali 13A. Perché tutto quello che è successo ci ricorda tanto quello che è successo alle donne, per cui è stata istituita poi la ricorrenza dell'8 marzo. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Tertulliano scriveva che la superiorità dei cristiani rispetto ai pagani era dimostrata dal fatto che i primi non ricorrevano alle lettere e alle denunce anonime. Dopo la Seconda Guerra Mondiale in Francia si aprì un dibattito che coinvolse tutta la società civile, scossa dalla scoperta che troppi francesi erano ricorsi a lettere e denunce anonime nei confronti degli ebrei. Per inciso, analogo dibattito sarebbe stato utile anche in Italia, ma per ipocrisia, perché di questo si tratta, altrettanto non fu fatto. Sono pertanto sbigottita che la Guardia di Finanza ci dica che le denunce, naturalmente anonime, nei confronti degli evasori fiscali siano triplicate rispetto all'anno scorso e che questo dato venga riportato in maniera enfatica ed elogiativa dai media. Che non si portino avanti per favore le ipocrite distinzioni che in maniera ricorrente vengono fatte fra ieri e oggi per giustificare sempre il presente. Possiamo addurre tutte le motivazioni che vogliamo, ma sempre di delazione stiamo parlando. È una cultura che ha trovato il terreno fertile su cui prosperare nell'ambito del promosso valore della meritocrazia. Quest'ultima sdogana il peggio dell'essere umano, rompe ogni rapporto di solidarietà con la collega, il compagno e il compagno di studi, induce a sposare la causa del datore di lavoro e del professore e sviluppa quanto di peggiore c'è nella persona fino alla delazione. Nella società come nella vita privata non ci sono compartimenti stagni. La meritocrazia è l'equivalente dell'ossequio alle istituzioni, del rispetto delle leggi a prescindere, di una presunta naturalità della storia, accompagnata dal deferente rispetto per chi sta ai vertici della piramide e per chi ce l'ha fatta. Rimuovere questi valori mortiferi che hanno destrutturato i rapporti affettivi, amicali, solidaristici, oscurando l'orizzonte della liberazione e sostituendolo con la promozione personale è una necessità. Ciao. We'll be right back. In questa seconda parte della trasmissione facciamo sempre un piccolo approfondimento e oggi ci piacerebbe incominciare da quello che è stato, sono state le notizie, insomma, che abbiamo dato prima. E quindi a partire da questa, diciamo, dall'assunzione di questa nuova stagione di militarizzazione dei territori e della cultura dello stupro, che quindi viene sdoganata in maniera molto pervasiva e capillare, ci è venuto in mente di fare anche una riflessione riguardo al fatto che negli ultimi 10-15 anni abbiamo assistito a un ingresso massiccio delle donne un po' a tutti i livelli di potere, quindi adesso partecipano sia al potere politico che al potere economico e possiamo fare, vengono in mente, diciamo, tanti nomi, no? Da Condoleezza Rice alla Palin, alla Marcegaglia, per parlare delle donne di casa nostra, ma anche alla Lagarde che adesso guida il Fondo Monetario Internazionale, eccetera eccetera. Questo collegamento perché? Perché questo ingresso delle donne in politica e nel resto dei vertici del potere, insomma, secondo noi va sotto il nome di emancipazionismo, che è una cosa assolutamente diversa invece dalla liberazione di genere, da quello che fu diciamo il movimento rivoluzionario femminista. E appunto, parlavamo di militarizzazione e cultura della sopraffazione e quindi volevo farvi proprio un approfondimento sulla figura, ad esempio, di Condoleezza Rice, perché questa nuova stagione di... cioè nel 2001, quando avvenne l'attacco alle Torri Gemelle, è stato segnato un passaggio importante nel campo della ridefinizione del concetto di pericolosità sociale, nel senso che la definizione di terrorista si è allargata a macchia d'olio su tutti quei soggetti antagonisti che... diciamo cercano di opporsi a questo sistema di potere che ci troviamo davanti. Questa ridefinizione del concetto di pericolosità sociale ha sdoganato un uso della forza repressiva, sia poliziesca che militare, all'esterno ma anche all'interno degli stati. E di questa riedita stagione neocoloniale Rice è uno dei maggiori responsabili, perché, come ad esempio Roy ricordava riguardo all'Armed Force Special Power Act, che sono tutti atti legislativi che concedono l'impunità a qualsiasi corpo di polizia, stessa cosa è stato fatto con gli Anti-Terrorist Act, che dagli Stati Uniti poi si sono... sono stati ripresi, diciamo, da tutti gli stati dell'Occidente. Questo è la dottrina del nuovo patto sociale securitario, no? Cioè fondato sulla sicurezza, questa richiesta di sicurezza di cui, come dicevamo prima, questi movimenti di indignazione verso chiedono, diciamo, soltanto risposte securitarie. Quindi su questa nuova dottrina del patto sociale securitario le donne si sono abbastanza infilate, perché come la Rice ci sono la Palin Per continuare sull'esempio delle donne americane, delle politiche americane come la Rice e la Palin, dicevamo che questa, la Rice, prima come responsabile della sicurezza e poi come segretario di Stato, ha sempre parteggiato per la causa imperialista e quindi per il mantenimento di questo sistema di sfruttamento e di questa cultura della sopraffazione, non cedendo mai al dubbio sul perché questi regimi democratici di cui noi anche facciamo parte, a dispetto degli ideali di cui si ammantano e forse proprio in virtù degli stessi, finiscono sempre con l'aggredire territori, sterminare popolazioni e portare distruzione, in questa nuova stagione anche all'interno degli stessi stati. D'altra parte, insomma, facendo una piccola chiosa su quello che è la democrazia e su come si è sviluppata, cioè diciamo come contenitore di un sistema capitalista, sappiamo insomma che la guerra viene intesa dalla democrazia come una fase necessaria, no? Cioè questa è la dottrina dello stato d'eccezione, per cui per salvare la democrazia bisogna essere in grado di sospenderla, per salvare lo stato di diritto bisogna saper sacrificare il diritto e mantenere lo stato. E infatti è la forma di governo a cui tutte queste donne in massa partecipano che ha dimostrato storicamente la maggior capacità di mobilitare per la guerra e verso la guerra. Solo che queste democratiche donne, come i democratici uomini, sono gli unici che non se ne accorgono, perché all'inizio di questa stagione portavano la guerra fuori da casa propria, negli altri paesi. Adesso che diciamo di territori da aggredire ne sono rimasti pochi, cominciamo ad occupare anche i nostri territori. Comunque, appunto, come si lega tutto il discorso sull'emancipazionismo, che è cosa diversa dalla liberazione di genere, con questa nuova stagione neocoloniale? Cioè praticamente da questa visione di scala l'emancipazionismo appare semplicemente come un maquillage molto rassicurante, no? Cioè si cambia volto al sistema economico e al potere, si dà un volto femminile, si giustappongono figure femminili a figure maschili, ma diciamo per non cambiare nulla. Questo maquillage però comporta anche un altro tipo di involuzione, e cioè sclerotizza il falso principio per cui la donna, ed è questo forse il punto di rimente a cui volevamo arrivare, è determinata dal sesso biologico. Quindi si alimenta un'altra falsa prospettiva secondo cui le rivendicazioni femministi possano essere trasversali a prescindere dalla classe o dall'identità politica. Ma all'interno di questa mistificazione non è possibile realizzare un'idea di riconoscimento di genere e quindi neanche di solidarietà. È per questo insomma che ci è venuto in mente di fare una piccola chiosa su come le donne hanno partecipato e anzi sono fatte promotrici di questa nuova stagione molto aggressiva di controllo sulle vite, sui territori, che passa appunto anche per la cultura dello stupro. You are. Avevamo chiamato l'approfondimento di questa sera una bestia imperfetta, senza fede, senza timore, senza costanza, che è un vecchio adagio francese sulle donne dell'epoca moderna. Ma l'importanza di quello che abbiamo detto finora, dell'analisi delle vicende dell'India, di casa nostra, e i risvolti che questi hanno portato sull'analisi della situazione attuale, sulle donne, sull'emancipazione, eccetera, ci ha preso molto spazio perché l'abbiamo voluto, abbiamo deciso che era giusto sviscerarlo in questo modo. E quindi l'approfondimento che volevamo fare questa volta, che poi trattava della costruzione della figura della donna attuale dal 500 in poi, funzionale al capitalismo, lo faremo la prossima volta. A questo punto ci sembrava molto importante ricordare la vicenda di Atlantide, che è la sede di gruppi femministi, lesbici, gay, queer, punk di Bologna, che dal 1988 è in un luogo che appunto si chiama Atlantide, ed è proprio un luogo di promozione di libertà, di autonomia per le donne, di visibilità politica, di auto-organizzazione femminista LGBTQ. Ecco, allora Atlantide è a rischio di chiusura. Diciamo di chiusura perché il comune, o chi per lui, perché ci avevano già provato nel 2011, come dice il comunicato che ha mandato in giro Atlantide, con la commissaria Cancellieri, che prima di lasciare la città e diventare successivamente ministro dell'interno aveva dettato le linee guida per un bando che proponeva di assegnare lo spazio a associazioni che si occupassero di tutela ambientale. Beh, insomma, adesso ci hanno riprovato, ci stanno riprovando e vogliono sbattere fuori Atlantide da quello spazio. Allora, noi assolutamente diamo tutta la nostra solidarietà a tutti i gruppi che attraversano Atlantide e che sono Antagonismo Gay, Laboratorio Smascheramenti, Clitoristic, quelle che non ci stanno, Nulla Osta, che dovrebbero abbandonare il cassero in favore di tre associazioni completamente estranee alla sua storia più che decennale. E invitiamo tutte a sostenere Atlantide, e ricordiamo che gli spazi di donne femministe, lesbiche, e comunque gli spazi occupati, gli spazi separati, gli spazi difesi vanno sostenuti in tutti i modi. E a questo proposito ricordiamo che mercoledì 16 gennaio, cioè mercoledì prossimo, ci sarà l'ennesimo tentativo di accesso al 22 di Via dei Volsci, luogo separato di femministe e lesbiche, l'ennesimo tentativo perché va avanti ormai da diverso tempo, e ci ritroveremo tutte dalle 8 in poi mercoledì mattina a difesa del 22. We won't save you. E vediamo una novità al volo, fresca fresca, come si dice, di giornata. È uscita un'autoproduzione femminista, un libro autoprodotto a cura di Refe, Relazioni Femministe, che sono donne di Torino, Genova e Milano, e che hanno fatto questo libro che presenteranno il 19 gennaio 2013 a Torino insieme a Radio Blackout alle ore 18. E si intitola Digitalis Purpurea e sono riflessioni su conflitto, corpo, violenza a cura del progetto Refe. Come Refe, Relazioni Femministe, hanno partecipato al convegno sulla memoria collettiva memoria femminista che abbiamo fatto qui il 15 dicembre a Roma allo spazio sociale occupato dell'ex 51 come coordinamento femminista e lesbica con un loro contributo, e infatti loro ribadiscono che Refe è la storia di ognuna che si fa storia di tutte noi, e si confrontano sull'esigenza, sul fare e sull'agire. Adesso vi salutiamo e quindi ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, dalle 8 alle 9, I Nomi delle Cose, la trasmissione a cura della Coordinamenta Femminista e Lesbica. E vi diamo poi i nostri indirizzi, che sono... Allora, l'indirizzo di posta coordinamenta@autistiche.org, il nostro blog www.coordinamenta.noblogs.org, e andate spesso a vedere il blog perché ci sono un mucchio di cose interessanti. Got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands encyclopedia. They must have paid her a nice price, she's putting on her stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life. Peel out the watchword. headlights are on. Your keys. Your